Trentesima traccia. Sì, verissimo, mia cara, esclamò quest'ultima, sebbene Jane non avesse pronunciato una parola. Stavo proprio per dire la stessa cosa. È davvero tempo di muoverci. Si fa sera e la nonna ci cercherà. Mio caro signore, siete troppo gentile. Davvero dobbiamo augurarvi la buona notte. La sveltezza di Jane nell'alzarsi dimostrò che essa era pronta come sua zia aveva presentito. Essa si alzò immediatamente e desiderò di lasciare la tavola. Ma se ne andavano in tanti che non poté allontanarsi. E Mr. Knightley credette di vedere un altro gruppo di lettere spinto ansiosamente verso di lei e risolutamente spazzato via da lei senza esaminarlo. Poi si mise a cercare il suo scialle. Anche Frank Churchill lo cercava. Si stava facendo buio e la camera era in confusione. E come si separarono, Mr. Knightley non lo seppe dire. Egli rimase a Harfield dopo che gli altri se ne furono andati, con la mente piena di ciò che aveva visto, così piena che quando vennero le candele ad assistere le sue osservazioni, egli sentì che doveva, certo doveva, da amico, un amico ansioso, lasciar cadere qualche accenno per Emma, rivolgerle qualche domanda. Non poteva vederla in una situazione così pericolosa senza cercare di salvarla, era suo dovere. «Vi prego, Emma», disse egli, «posso chiedervi in che consisteva il gran divertimento, la punta velenosa dell'ultima parola data a voi e a Miss Fairfax? Io ho visto la parola e sono curioso di sapere come mai poteva divertire tanto una di voi a dolorare l'altra». Emma rimase estremamente confusa. Non poté tollerare di dargli la vera spiegazione, poiché, sebbene i suoi sospetti non fossero affatto cessati, si vergognava davvero di averli mai comunicati. «Ah!» esclamò con evidente imbarazzo. «Non voleva dir nulla, era solo uno scherzo tra di noi». «Lo scherzo», rispose egli serio serio, «pareva limitato a voi e a Mr. Churchill». Egli sperava che ella parlasse ancora, ma non lo fece. Piuttosto che parlare, voleva darsi da fare intorno a qualunque cosa. Egli sedette per un po' dubbioso. Gli attraversavano la mente una quantità di cattive supposizioni. Inframmettenza, vana inframmettenza. La confusione di Emma e la riconosciuta intimità parevano dichiarare che l'affetto di lei era impegnato. Eppure egli volle parlare. Era il suo dovere verso di lei arrischiare qualunque cosa che un'importuna ingerenza avrebbe potuto implicare, anziché il benessere di lei. Affrontare qualunque cosa piuttosto che il ricordo d'essere stato negligente in una causa così importante. «Mia cara Emma», disse egli alla fine con seria cortesia, «credete di capire perfettamente il grado di conoscenza tra il signore e la signora di cui stiamo parlando? Tra Mr. Churchill e Miss Fairfax? Oh sì, perfettamente. Perché ne dubitate? Non avete mai in nessun momento avuto ragione di pensare che egli l'ammirasse o che lei ammirasse lui? Mai e poi mai», esclamò lei col più spontaneo calore. «Mai, per la ventesima volta ad un momento, mi è venuta in testa un'idea simile. E come è potuto venire in testa a voi? Negli ultimi tempi ho immaginato d'aver visto sintomi di attaccamento tra loro due, certi sguardi espressivi che non credo intendessero di essere pubblici. Oh, ma voi mi divertite immensamente. Provo una gran gioia a sentire che potete concedervi di dar libero corso alla vostra fantasia. Ma la supposizione non conta. Mi dispiace di dovervi arrestare alla vostra prima prova, ma proprio non torna». Non c'è alcuna ammirazione tra di loro, ve lo assicuro. E le apparenze che vi hanno impressionato sono state create da qualche circostanza speciale, sentimenti piuttosto di natura affatto diversa. È impossibile spiegare esattamente. C'è un bel po' d'assurdità in questo, ma la parte che può venir comunicata e che suona ragionevole è che sono lontani quanto possono esserlo due creature umane da qualsiasi attaccamento o ammirazione dell'uno per l'altra. Cioè, io presumo che sia così da parte di lei e posso garantire che è così da parte di lui. garantisco l'indifferenza del giovane. Essa parlava con una fiducia che sbalordì, con una soddisfazione che fece ammutolire Mr. Knightley. Emma si sentiva gaia e avrebbe voluto prolungare la conversazione, desiderando di sentire i particolari dei sospetti di lui, di sentir descrivere ogni sguardo, e i dove e i come, d'una situazione che la divertiva in sommo grado. Ma non trovò altrettanta gaiezza in lui. Egli s'accorse di non poter riuscire utile, e i suoi sentimenti erano troppo irritati per parlare. Per non venire irritato fino a una vera e propria febbre dal fuoco che le delicate abitudini di Mr. Woodhouse esigevano quasi ogni sera durante tutto l'anno, egli poco dopo prese frettolosamente congedo e si avviò a piedi alla frescura e alla solitudine dell'abbazia di Donwell. Dopo essere stata a lungo nutrita di speranza d'una sollecita visita di Mr. e Mrs. Suckling, la gente di Highbury fu obbligata a sopportare la mortificazione di sentire che non potevano assolutamente venire prima dell'autunno. Per il momento nessuna importazione di novità di quel genere poteva arricchire le loro provviste intellettuali. Nel quotidiano scambio di notizie dovevano di nuovo limitarsi agli altri argomenti, a cui per qualche tempo si era unito quello della venuta dei Suckling. Quali gli ultimi bollettini di Mrs. Churchill, la cui salute sembrava ogni giorno fornire un diverso quadro, e la situazione di Mrs. Weston, la cui felicità si sperava potesse a suo tempo venir di tanto accresciuta dall'arrivo d'un bambino, di quanto quella di tutti i suoi vicini lo era dall'approssimarsi di tale evento. Mrs. Elton era molto delusa. Ciò significava rimandare molto piacere e molto sfoggio. Tutte le sue presentazioni e raccomandazioni dovevano aspettare e ogni progettato trattenimento doveva rimanere allo stato di mero tema di conversazione. Così pensò a tutta prima, ma un po' di riflessione la convinse che non era necessario rimandare ogni cosa. Perché non dovevano esplorare fino a Box Hill, sebbene non venissero i Suckling? Avrebbero potuto tornarci con loro in autunno. Fu deciso di andare a Box Hill. Che dovesse esserci una tal gita era stato noto a tutti da un pezzo. Anzi, ne aveva suggerito pure un'altra. Emma non era mai stata a Box Hill. Desiderava di vedere un posto che ciascuno trovava tanto degno di essere visto. E lei e Mrs. Weston avevano risolto di scegliere qualche bella mattina e recarsi là in carrozza. Soltanto due o tre altri amici scelti dovevano essere ammessi a prendervi parte, e ciò doveva avvenire in una forma tranquilla, non pretenziosa, elegante, infinitamente superiore al trambusto e ai preparativi, al mangiare e bere in piena regola, la parata di picnic degli Elton e dei Suckling. Su ciò si erano intesi tanto bene tra loro che Emma non poté non provare qualche sorpresa e un po' di dispiacere sentendo da Mr. Weston che egli aveva proposto a Mrs. Elton, siccome il cognato e la sorella di lei le avevano mancato di parola, che le due brigate si unissero e andassero insieme e che siccome Mrs. Elton aveva accettato di buon grado la proposta, così sarebbe avvenuto se lei non aveva nulla in contrario. Ora, siccome la sua obiezione non era altro che la sua grande simpatia per Mrs. Elton, di cui Mr. Weston doveva essersi accorto perfettamente, non valeva la pena di ripresentarla. Ciò non poteva farsi senza un rimprovero a Mr. Weston, che avrebbe dato pena a sua moglie, sicché Emma si trovò obbligata ad acconsentire a una combinazione che avrebbe fatto di tutto per evitare, una combinazione che probabilmente l'avrebbe esposta perfino alla mortificazione di sentire chiamare la comitiva di Mrs. Elton. Ogni sentimento era urtato, e la tolleranza della sua deferenza esteriore lasciò un pesante arretrato di segreta severità nelle sue riflessioni sull'incoercibile benevolenza del carattere di Mr. Weston. «Son lieto che approviate ciò che ho fatto», disse egli con molta soddisfazione. «Ma pensavo che sarebbe stato così. Progetti come questi non valgono nulla se non si è in molti. La comitiva non può essere mai grande abbastanza. Una gran comitiva è sicura di divertirsi coi propri mezzi. E dopo tutto lei è una buona pasta di donna. Non si potrebbe escluderla». Emma non negò ad alta voce nessuna parte di questo discorso, ma in cuor suo non ne approvò alcuna. Sera adesso di giugno inoltrato e il tempo era bello. E Mrs. Elton diventava impaziente di fissare una data e di mettersi d'accordo con Mr. Weston circa i pasticci di piccione e l'agnello freddo, allorché l'azzoppamento di un cavallo d'una delle vetture mise tutto in una triste incertezza. Potevano passare settimane, o solo poteva trattarsi di pochi giorni, prima che il cavallo ridiventasse utilizzabile, ma non ci si poteva arrischiare a far preparativi, e tutto stagnava nel modo più malinconico. Le risorse di Mrs. Elton non erano preparate a sostenere un colpo simile. «Non è questo irritante, Knightley?» esclamò. «E con un tempo così magnifico per far gite, codesti indugi e disappunti sono proprio odiosi. Che dobbiamo fare? Di questo passo l'anno volgerà al termine e non si sarà combinato nulla. Prima di questa stagione, l'altro anno, vi assicuro, avevamo fatto una deliziosa gita d'esplorazione da Maple Grove a King's Weston». «Fareste meglio a esplorare fino a Dunwell», rispose Mr. Knightley. «Codesto potrebbe farsi senza bisogno di cavalli. Venite a mangiare le mie fragole, stanno maturando rapidamente». Se Mr. Knightley non cominciò sul serio, fu obbligato a continuare su questo tono, perché la sua proposta fu presa al volo con gioia e «Oh, non sapete quanto mi piacerebbe!» non era più esplicito nelle parole che nel modo. Dunwell era famoso per i suoi fragoletti, che sembravano una raccomandazione per l'invito, ma nessuna raccomandazione era necessaria. Cavolaie sarebbero bastate per tentare la signora, che desiderava solo di andare in qualche posto. Essa gli ripeté parecchie volte la promessa di venire, più spesso di quanto egli non dovesse dubitare, e fu molto lusingata da una tal prova di intimità, da un complimento così speciale quale a lei piacque considerarlo. «Potete contare su di me», disse ella. «Verrò di certo. Fissatevi il giorno e verrò. Mi permettete di condurre Jane Fairfax?» «Non posso fissare la data», disse lui, «finché non ho parlato con altre persone che desidererei si incontrassero con voi». «Oh, lasciate che me ne occupi io. Non avete che da darmi carta bianca. Io sono patronessa, sapete. È un trattenimento che organizzo io. Condurrò degli amici con me». «Spero che condurrete Elton», disse lui, «ma non vi disturberò chiedendovi di fare altri inviti». «Oh, adesso avete l'aria d'un gran furbone, ma considerate, non dovete aver paura di delegare il potere a me. Io non sono una signorina appena promossa. Le donne sposate, sapete, possono venire autorizzati con piena fiducia. È il mio trattenimento. Lasciate fare tutto me. Io inviterò i vostri ospiti». «No», rispose egli con calma. «C'è al mondo una sola donna maritata a cui io posso permettere di invitare gli ospiti che vuole a Dunwell. Questa è Mrs. Weston, suppongo», interruppe Mrs. Elton piuttosto mortificata. «No, Mrs. Knightley. E finché non ci sarà una tale, io provvederò da me a faccende simili». «Ah, ma siete un uomo strano!» esclamò lei, soddisfatta di non veder nessun'altra preferita a lei stessa. «Siete un umorista e potete dire quel che vi pare. Proprio un umorista. Ebbene, condurrò con me Jane. Jane con la zia. Il resto lo lascio a voi. Non ho nessuna obiezione a incontrare la famiglia di Harfield. Non abbiate scrupoli. So che voi siete affezionata a loro. Certo, voi li incontrerete se io posso persuaderli a venire. E tornando a casa, passerò io da Miss Bates. Questo non è affatto necessario, io vedo Jane ogni mattino. Ma fate pure come volete. Deve essere una mattinata, sapete, Knightley. Una cosa semplice semplice. Io porterò un cappello grande e recherò uno dei miei cestini filato al braccio. Ecco qua, probabilmente questo cestino con un nastro rosa. Niente può essere più semplice, vedete? E Jane ne porterà un altro. Non ci saranno formalità o sfoggio alcuno. Una specie di comitiva di zingari. Passeggeremo per il vostro giardino e coglieremo le fragole noi stesse. E ci siederemo sotto gli alberi. E qualunque altra cosa vorrete provvedere dovrà essere all'aperto. Una tavola apparecchiata all'ombra, sapete. Ogni cosa il più possibile naturale e semplice. Non è questa la vostra idea? Non proprio. La mia idea di semplicità e di naturalezza sarà di avere la tavola apparecchiata nella sala da pranzo. La naturalezza e la semplicità di signore e signore, coi loro camerieri e i loro mobili, credo che vengano meglio osservate prendendo i pasti in casa. Quando sarete stanca di mangiare fragole nel giardino, ci sarà carne fredda in casa. Ebbene, come volete. Solo non fate un grande apparato. E a proposito, possiamo io o la mia governante assistervi con la nostra opinione? Vi prego, siate sincero, Mr. Knightley. Se desiderate che io parli a Mrs. Hodge o ispezioni qualcosa... No, non ne ho il minimo desiderio, grazie. Sta bene, ma se dovessero sorgere difficoltà, la mia governante è bravissima. Vi garantisco che la mia si ritiene altrettanto brava e rifiuterebbe indignata l'assistenza d'alcuno. Vorrei che avessimo un somaro. L'idea sarebbe che noi si arrivasse tutti su dei somari, Jane, Miss Bates e io, e il mio caro sposo ci accompagnasse a piedi. Davvero, devo parlarvi circa l'acquisto di un somaro. Nella vita di campagna lo ritengo una specie di necessità, perché, per quante risorse possa avere una donna, non è possibile che rimanga sempre chiusa in casa. E le passeggiate molto lunghe, sapete, d'estate c'è polvere, e d'inverno fango. Non troverete né l'una né l'altra fra Donwell e Ivory. La strada di Donwell non è mai polverosa, e ora è perfettamente asciutta. Però venite pure su un somaro, se preferite. Potete prendere a prestito quello di Mrs. Cole. Desidero che ogni cosa sia, per quanto è possibile, di vostro gusto. Sono sicura che lo desiderate. In verità vi rendo giustizia, amico mio caro. Sotto quegli strani modi asciutti e bruschi, so che siete un cuore d'oro. Come dico a Mr. Elton, voi siete un perfetto umorista. Sì, credetemi, Knightley, apprezzo vivamente il vostro riguardo per me in tutto questo progetto. Avete proprio azzeccato la cosa che mi va a genio. Mr. Knightley aveva un'altra ragione per evitare una tavola all'ombra. Desiderava di persuadere Mr. Woodhouse, oltre ad Emma, a unirsi alla brigata, e sapeva che se avesse fatto sedere all'aperto qualcuno di loro per mangiare, egli si sarebbe inevitabilmente sentito male. Non bisognava, sotto la lustra d'una scorrazzata mattutina, o un'ora o due da passare a Donwell, adescare Mr. Woodhouse a recarsi dove sarebbe stato infelice. Fu invitato in buona fede. Nessun orrore latente doveva farlo pentire della sua facile credulità. Egli acconsentì. Non si era recato a Donwell da 2 anni. Una mattina proprio bella, lui e Emma e Harriet sarebbero potuti andare benissimo, e lui poteva sedere calmo calmo con Mrs. Weston mentre le care ragazze avrebbero passeggiato in giardino. Non supponeva che il giardino fosse umido di questa stagione verso mezzodì. Gli sarebbe piaciuto moltissimo di rivedere l'antica casa e sarebbe stato molto lieto di incontrare Mr. e Mrs. Elton e qualunque altro dei suoi vicini. Non poteva vedere nulla in contrario che lui e Emma e Harriet si recassero là in una bella mattinata. Pensava che Mr. Knightley avesse avuto un'idea eccellente a invitarli, molto cortese e giudiziosa. Molto meglio di un invito a pranzo, non gli piaceva pranzare in casa altrui. Mr. Knightley ebbe la fortuna di trovar tutti di buon grado consenzienti. L'invito fu ricevuto con tanto piacere dappertutto che pareva che, come Mrs. Elton, tutti ritenessero il progetto un complimento personale. Emma e Harriet manifestarono grandi speranze di divertirsi in tale circostanza e Mr. Weston, senza venirne richiesto, promise di far venire Frank per unirsi a loro, se possibile. Un segno di approvazione e di gratitudine di cui si sarebbe potuto fare a meno. Mr. Knightley fu quindi obbligato a dire che sarebbe stato lieto di vederlo e Mr. Weston si impegnò a non porre tempo in mezzo a scrivere e a non risparmiare argomenti per indurlo a venire. Frattanto, il cavallo azzoppato si rimise così presto che la ditta Box Hill ritornò di nuovo felicemente sul tappeto e alla fine Donwell fu fissato per un giorno e Box Hill per il seguente, poiché il tempo sembrava proprio quello che ci voleva. Sotto un sole splendente di mezzodì, verso la metà di giugno, Mr. Woodhouse fu trasportato sano e salvo nella sua carrozza, con un finestrino abbassato, per prender parte a questo trattenimento all'aperto. E in una delle più comode stanze dell'abbazia, appositamente preparata per lui col fuoco acceso per tutta la mattina, egli venne felicemente installato, assolutamente a suo agio, pronto a parlare con piacere di ciò che era stato compiuto e a consigliare ognuno di venire a mettersi a sedere e di non accaldarsi. Mr. Weston, che sembrava essere venuto a piedi con l'intento di essere stanco e sedere tutto il tempo con lui, rimase, allorché tutti gli altri erano stati invitati o persuasi a uscire. Era tanto tempo che Emma non si era recata all'abbazia, che appena si fu accertata che suo padre aveva tutti comodi, fu lieta di lasciarlo e di guardarsi intorno, desiderosa di rinfrescare e rettificare la sua memoria con un'osservazione più minuta, con un più esatto apprezzamento di una casa e di un parco che dovevano essere così interessanti per lei e per tutta la sua famiglia. Essa sentiva tutto l'onesto orgoglio e compiacimento che comportava la sua parentela col proprietario attuale e col futuro, mentre osservava le rispettabili proporzioni e lo stile dell'edificio, la sua posizione conveniente, decorosa, caratteristica, bassa e protetta, i suoi vasti giardini stendentisi giù fino ai prati bagnati da un corso d'acqua, di cui l'abbazia, con tutta l'antica noncuranza della prospettiva, non godeva neanche un po' di vista, e la sua abbondanza d'alberi in file e in viali, che né la moda né il capriccio avevano sradicati. La casa era più grande di Harfield e affatto diversa, coprendo molto terreno, sparpagliata e irregolare, con molte stanze comode e una o due stanze belle. Era esattamente quel che doveva essere e appariva quello che era. Ed Emma sentì per essa un rispetto crescente, quale residenza d'una famiglia di così genuina nobiltà, non corrotta nel sangue e nella mente. Difetti di carattere John Knightley ne aveva, ma Isabella aveva fatto un matrimonio irreprensibile. Non aveva dato loro né uomini, né nomi, né luoghi che potessero provocare il minimo rossore. Erano piacevoli sentimenti questi, ed Emma passeggiava abbandonandovisi, finché fu necessario fare quel che facevano gli altri e mettersi a cogliere fragole. Si erano riuniti tutti gli invitati, a eccezione di Frank Churchill, che era atteso da un momento all'altro da Richmond, e Mrs. Elton, in tutto il suo apparato di felicità, col cappello grande e il cestino, era prontissima a mettersi alla testa nel cogliere, nell'accettare o nel discutere. Le fragole, e soltanto le fragole, potevano adesso essere l'oggetto dei pensieri o dei discorsi. il miglior frutto d'Inghilterra, il preferito di tutti, sempre sano. Questi fragoletti, i più belli, e le fragole della specie migliore. Delizioso cogliersele da sé, l'unico modo di godersele. La mattina è decisamente il momento migliore, mai stanca, ogni specie buona. La fragola di giardino è infinitamente superiore, nessun confronto, le altre appena mangiabili. Le fragole di giardino molto rare, quelle del Cile preferite, quelle bianche la fragranza più delicata, prezzo delle fragole a Londra, abbondanza di fragole intorno a Bristol, Maple Grove, coltivazione delle fragole, quando si debbono rinnovare i fragoletti, i giardinieri sono di parere diametralmente opposto, nessuna regola generale, non c'è verso di far cambiare sistema ai giardinieri, un frutto delizioso, solo un po' troppo ricco perché se ne possa mangiare in quantità. Inferiore alle ciliegie, il ribes più rinfrescante, solo obiezione al coglier fragole il doversi curvare, sole abbagliante, morta dalla stanchezza, non ci reggeva più, devo andarmi a sedire all'ombra. Tale per mezz'ora fu la conversazione, interrotta solo una volta da Mrs. Weston, che venne fuori, spinta dalla sua sollecitudine per il figliastro a chiedere se era arrivato, e stava un po' in pensiero, aveva un po' paura del suo cavallo. Furono trovati posti da sedere, tollerabilmente all'ombra, ed Emma fu ora obbligata a sentire la conversazione tra Mrs. Elton e Jane Fairfax. Si trattava d'un posto di governante, un posto quanto mai desiderabile. Mrs. Elton ne aveva avuto notizia la mattina ed era in estasi. Non era presso Mrs. Suckling, non era presso Mrs. Blage, ma per delizia e splendore era solo al di sotto di tali posti. Era presso una cugina di Mrs. Blage, una conoscenza di Mrs. Suckling, una signora nota a Maple Grove. Delizioso, incantevole, superiore, l'ambiente più fino, le sfere più alte, i ranghi eccelsi, insomma tutto. E Mrs. Elton tempestava perché l'offerta fosse accettata immediatamente. Dalla parte di lei tutto era calore, energia e trionfo, e decisamente rifiutava di dare ascolto al diniego della sua amica, sebbene Miss Fairfax continuasse ad assicurarla che per il momento non voleva prendere impegni di sorta e ripetesse i motivi che era stata già sentita esporre prima. Con tutto ciò, Mrs. Elton insisteva per essere autorizzata a scrivere un'accettazione con la posta dell'indomani. Come Jane potesse sopportare tutto questo, riusciva sorprendente a Emma. Appariva sì irritata, parlava in modo tagliente, ma alla fine, con un'azione decisa che le era insolita, propose d'allontanarsi. Perché non fare un giro? Mr. Knightley non poteva mostrar loro i giardini, tutti i giardini, desiderava visitarli tutti. La pertinacia della sua amica pareva più di quanto lei potesse tollerare.